la storia di Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Ogni giorno un episodio in onda su Runtime Radio alle 12. Gente, sono in ritardo di quasi 3 minuti, ma ci avete presente quelle mattine che c'è proprio voglia di fare un cazzo? Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta 1,5 metri, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna è stato diminuito, abbiamo fatto gli studi, settenta, e noi siamo arrivati a 7 milioni. Stavo di guarda andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda. Sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Certo, aprire con le pernacchie è sempre divertente, soprattutto quando si tratta di questi assets meravigliosi che continueremo a produrre nei prossimi mesi. Comunque, buongiorno a tutti, dai, alzatevi dal letto, sbrigatevi, iniziate a far colazione, cercate di mettere la vostra esistenza in una condizione decente per affrontare questa seconda giornata della settimana. Quindi, sai, quando arriva buongiorno un cazzo, ti aspetti, ah, meno male, giovedì, domani, invece no, perché oggi c'è la sostituzione, perché Michela c'ha da fa, e giustamente. Poi considerate che io ho anche saltato una puntata, quindi magari sta settimana ne faccio tutte e due io, chi lo sa, mo vediamo, perché qui ci inventiamo tutto nel momento in cui succedono le cose. Invece, intanto salutiamo Michela appunto e Walter, che ci salutano in chat, uno dal cuscino, l'altro con i bacetti. Invece, prima di iniziare seriamente la trasmissione, della quale contenuti, insomma, ricchi contenuti, tipo, vedremo di che parliamo, perché sai, io le cose me le invento anche lì per lì, volevo dirti a te che mi stai ascoltando anche in podcast, che questo è il mese più drammatico dai tempi di Dunkirk per Runtime Radio, quindi donate. Se noi ogni tanto ve lo diciamo, fatelo, se stavolta lo fate è meglio, cioè nel senso che veramente mai pubblicità è stata così bassa, e speriamo insomma nel report di Patreon che arriverà fra un paio di giorni, credo, 2 o 3 giorni. Quindi insomma, ragazzi, è stato un mese un po' fragile da questo punto di vista, ma è anche vero che è un mese in cui Runtime dimostra effettivamente di essere in una grossa transizione tra i vecchi podcast che in realtà oramai sono quasi morenti, diciamo così, e i nuovi podcast che stanno nascendo, e grazie al cielo, perché riporteranno comunque linfa e flusso fresco all'interno del nostro network. E poi ovviamente il grande impegno per la radio, che in alcune situazioni, come ho già detto, non ricordo dove, probabilmente in Disordinati Informati di sabato, si incrocerà con questa sperimentazione della radiovisione in quei talk show che si prestano e non ci sono contenuti di terze parti particolari. Andremo anche su Twitch in interconnessione, in modo che magari altre persone nuove si affaccino anche alla nostra realtà e possano poi successivamente anche magari abbonarsi e dare il loro contributo a questo, che è un progetto che sta crescendo. E tra l'altro, ieri abbiamo avuto un'importante riunione di cui dovrò mettere a conoscenza insomma tutti i ragazzi di Runtime Radio, dove appunto si sta cercando di capire come avviare questa grande trasformazione Runtime Radio in associazione, in modo che tante iniziative pratiche, culturali e sociali che noi avevamo in mente di fare si possano fare senza nessun grosso problema. E adesso iniziamo con una canzone di un artista che io ogni tanto snobbo, devo dire la verità, però è forte, è forte. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Dicevo che ogni tanto snobbo come artista perché me ne dimentico, perché non sono stato mai un grandissimo appassionato, devo dire la verità, però ammettiamo insomma che ha fatto anche cose geniali, anche se io e lui abbiamo una visione di rock completamente diversa, però è vero pure insomma, che ci stanno quasi 50 anni di differenza tra, voglio dire, quello che è la musica rock attuale rispetto a quello che era quello che proponeva lui in questo mix tra canzone autorale italiana e rock and roll, diciamo così, perché forse era più, ecco, forse più simile al concetto di rock and roll piuttosto che al concetto di rock, insomma, per come lo intendiamo oggi in senso moderno, no? Però insomma, è sempre stato un personaggio abbastanza particolare, trasgressivo, divertente, anche perché comunque le sue canzoni erano anche divertenti, sono, perché non è che è ancora morto Edoardo Bennato, però insomma, ecco, non ci ho fatto mai tanto, così come non ci ho mai fatto tanto anche per Pino Daniele, anche se Pino Daniele secondo me artisticamente è proprio su un altro livello, cioè proprio sono proprio su un altro piano, infatti sono delle c'è della roba veramente tosta, veramente forte, importante proprio da un punto di vista musicale, insomma, diciamo così. E invece Edoardo Bennato secondo me si è sempre mantenuto un po' in quel livello un po' musichette, e quindi insomma questo è quanto. E invece volevo dire semplicemente, cioè, quando ero pischello e mi leggevo quei romanzi di fantascienza, no, dove c'era praticamente queste società illuminate, un po' alla Star Trek, no? Queste società evolute, illuminate, che comunque avevano, viaggiavano per la galassia, avevano modo di contattare tantissime specie, no? Aliene. Mi sono sempre detto, dentro di me, ho detto, secondo me questi romanzi sono scritti per abituarci al fatto che esiste questa cosa, cioè nel senso questa possibilità, esistono gli alieni e via dicendo. E come una sorta di preparazione culturale tramite una sorta di testa di ponte, no? Tramite un cavallo di Troia, cioè nel senso un'informazione si insinua dentro di te in maniera giocosa, diciamo ludica, divertente, basata sull'intrattenimento, ma però comunque nel momento in cui si dovessero verificare certe cose tu dici, insomma, tutto sommato te l'aspettavi, no? Però oggi vanno più di moda i romanzi distopici, no? Cioè quelli dove si costruiscono, cioè diciamo si raccontano delle società che sembrano normali ma che in realtà si basano su una distorsione distopica e su una monodirezionalità del pensiero che porta ovviamente le società a una distorsione comportamentale dal punto di vista più strettamente democratico, però mascherata bene, no? Nel senso mascherata con un aspetto pulito, educato, dove insomma c'è grossa attenzione, no? E questo non so se ci avete fatto caso, se mai vi capita, perché insomma io capisco che poi dopo, quando queste società insomma si costruiscono così in maniera forte e si sostituiscono al sistema che tu conoscevi in maniera così con una transizione così morbida che praticamente lì per lì non te ne rendi manco conto, e stai lì a un certo punto ti ritrovi che è successo e tu ti domandi, ma quando è successo tutto questo? È successo in tutti quegli anni in cui ovviamente la cultura è stata demonizzata e distrutta nel nostro paese, è successo quando la scuola è stata completamente sbragata e disgregata, è successo quando in televisione i programmi culturali sono stati sostituiti da zinne e culi, è successo quando noi ci siamo completamente disabituati a qualsiasi tipo di pensiero che sia il pensiero critico, indipendentemente da quale sia il pensiero critico o cosa ti porta al pensiero critico. Perché poi non è che il pensiero critico ti porta alla verità, ma ti porta ad avere un senso critico, che è quello l'elemento importante. poi magari il sistema c'ha più ragione di te, magari le cose sono giuste così come stanno, però il fatto che tu non le metti più in discussione, o che quel metterlo in discussione è quasi una sorta di ombra dentro di te che dici: ma a me mi sembra che c'è qualcosa che non va. Questo significa che praticamente non siamo più abituati, e le società distopiche alla fine indirizzano la rabbia delle persone, che ci sarà sempre tutto sommato, o perlomeno di una parte della società ci sarà sempre, le indirizzano in cose più futili, in Hunger Games ad esempio, no? Nel senso, quello è chiaramente un paradosso estremo, no? Però su proteste che non servono a cazzo, sulle stronzate, cioè sull'andare in piazza perché comunque c'è un ausilio sanitario che serve per salvarti la vita. Quindi alla fine tutta questa pantomima che c'è sta, no? sulle proteste, su quelli là che alla fine fanno parte tutti quanti dello stesso gioco, tutto sommato, no? Di una società che si indirizza verso un certo tipo di discorso monodirezionale, e di persone che fingono, anzi non si rendono conto di fingere di avere un pensiero critico basato sulle cazzate, cioè su cose che in realtà di critico non c'hanno niente, ma sono semplici proteste basate anche in maniera pretestuosa, che sicuramente avvantaggiano qualcuno, perché c'è sempre qualcuno che ci guadagna, no, dietro una storia del genere. Ecco, questo è un po' quello che secondo me sta succedendo, perché quando iniziò la storia del Covid in maniera particolare, ma non che il Covid è stato il passaggio, no? la chiave di via, il motivo, cioè nel senso è stato un elemento pathfinder, no? Cioè un'apripista per questo tipo di discorso. Questo era un discorso che era già in corso da tantissimo tempo, poi sicuramente il Covid ha accelerato certi procedimenti, no? Perché io vi dicevo sempre, quando c'erano quei decreti un po' liberticidi, no? Cioè nel senso che sì, noi giustificavamo col fatto che era giusto, perché bla bla bla, però poi alla fine di fatto erano in contraddizione col senso di libertà, di democrazia, con il rispetto anche costituzionale. Però l'abbiamo fatto perché era comunque indispensabile. Però quando io dicevo ho detto una cosa che si diceva anche nei tempi delle famose leggi speciali antiterrorismo, quando c'era l'IRA e quindi l'Inghilterra combatteva il terrorismo irlandese. Ogni volta che si fa una legge speciale si compie un abominio, perché una legge speciale è una legge fatta su misura di un certo tipo di problematica, e quando quella legge poi diventa sistema e viene assimilato dal sistema, dopo quella legge diventa un pretesto per cose anche peggiori. Ed è quello che comunque continua a succedere. Cioè noi oggi ci troviamo di fronte a una crisi sicuramente internazionale, importante, profonda, che sicuramente ci dilania, che sicuramente noi vorremmo che non ci fosse, che certamente quell'aspetto pacifista di noi vorrebbe che questa cosa smettesse immediatamente. Però poi alla fine anche questa volta, anche in questa occasione, diventa un motivo per un pensiero monodirezionale, dove se tu comunque obietti in qualche maniera o fai un'opposizione vieni guardato come un mostro, perché tu come ti permetti di pensare una cosa così, perché i bambini, no? Perché questo poi quello che succede fondamentalmente, e a maggior ragione questa cosa viene utilizzata sempre di più pure per attuare delle scelte politiche, che sono delle scelte importanti. Tipo un paese come il nostro, che da decenni, diciamo, bisogna investire sulla ricerca, e la ricerca è l'ultima spesa veramente l'ultima spesa di cui si preoccupa lo Stato. Oggi c'è stata una modifica, oggi in questo periodo c'è stata una modifica nell'ordine, quindi nelle priorità delle spese dello Stato, aumentando le spese militari da non so quanto tempo, sempre a discapito invece di quelli che dovrebbero essere i principi un po' più etici, no? Più morali, più evolutivi di un paese, ossia la ricerca, la scuola, l'istruzione, cercare di far capire alla gente perché è sbagliato quello che sta succedendo, non semplicemente dicendo è sbagliato quindi andiamo a tirare i sassi all'altri. Perché quando io dico io sono contro la guerra della Russia, non significa che sto a favore dell'Ucraina, non significa per niente questo. Uno può nasconde i motivi di una guerra dietro a qualsiasi motivo etico, politico, religioso, ideologico, ma in realtà una guerra, quindi investimento di risorse così importanti e un'azione così radicale, di solito c'è sempre dei motivi che prescindono poi da quello che possa sembrare, no? Cioè nel senso da quello che ci dicono, no? Cioè, perché quello è il leader matto, sono cattivi, vogliono. In realtà la sensazione che ho io da un po' di tempo a sta parte è che anche in virtù del fatto che ci sia un po' una sorta di rassegnazione su quello che sono le condizioni a livello planetario, ho un po' l'impressione che sia iniziata una sorta di accaparramento delle risorse del pianeta, cioè nel senso che comunque chi in questo momento è nelle condizioni di agire una supremazia nei confronti di una risorsa prima o poi insomma comincerà a farlo. È iniziato la Russia con quello che è ovviamente il granaio del mondo dell'Ucraina, e il modo in cui sta reagendo l'America chiaramente ci fa capire che questa cosa, al di là del punto del fattore comportamentale e culturale, del fatto che se la Russia fa una cosa gli americani non possono far vedere che ce l'hanno più piccolo, no? Cioè nel senso è assolutamente inaccettabile una cosa del genere. Secondo me c'è una sorta di consapevolezza generale sul fatto che quello che sta iniziando oggi è egoisticamente un atto di protezione rispetto a quelli che saranno probabilmente nei prossimi decenni comunque di una situazione più problematica rispetto a quella che noi siamo abituati, in una società che continua a far finta di niente, che continua a vivere con i propri privilegi, che non si addestra e non si abitua al vivere, al pensare di dover vivere in condizioni diverse da quelle che abbiamo adesso, non tanto noi della nostra generazione, io in particolare, quanto i nostri figli in maniera particolare, che insomma sicuramente inizieranno a sentire l'impatto della scarsità delle risorse, perché questo è quello che succederà se non facciamo qualcosa. Ma anche facendo qualcosa, sono abbastanza convinto che un certo tipo di procedimento è già in moto, lo sappiamo che è così, no? E poi non c'è, nel senso, non è che perché dice la fine del mondo, no? Non finirà il mondo, cambieranno le condizioni e ci sarà sicuramente chi sopravviverà e chi non sopravviverà, e tra quelli che sopravviveranno ci saranno quelli che saranno stati già in grado di accumulare risorse e si saranno già abituati a vivere in una certa maniera, mentre noi siamo qui nel nostro mondo patinato, la nostra bella Europa, e diciamo che scandalo, la guerra, che cosa brutta, sono proprio dei bababi, e noi ci preoccupiamo del fatto che mettersi insieme tutti significa ragionare tutti su un problema singolo e trovare una soluzione, perché io sono abbastanza convinto che la Russia per un certo momento della sua storia recente ci ha anche provato, e lo dimostrano tutte le cooperazioni internazionali nei confronti delle quali la Russia ha dato un contributo importante, ma poi dopo si è trovata di fronte a degli interlocutori che guardano i super cazzi loro, ma non nei cazzi loro nel senso nazionale, perché questo sarebbe quasi politicamente compatibile con quella che è la visione di Putin, no? Cioè nel senso comunque lavorare in funzione dello Stato, no? Ma proprio da un punto di vista proprio personale, cioè proprio che tu qui i politici continuano ancora oggi, nonostante tutto quello che c'è stato, nonostante il disagio della gente, nonostante i voti di protesta, nonostante i processi per tangenti e tutto quanto, continuano ancora a avere questa visione monodirezionale delle cose, ossia sì, facciamo che noi siamo quelli che ci preoccupiamo perché lo Stato, i bambini, i poveri bambini, però intanto mettiamo in saccoccia tutti i soldi, o quantomeno una buona parte di quei soldi che servivano per Covid, facendo finta di comprare le mascherine, facendo finta di comprare i grembiuli, anzi come si chiamano, i camici da medico e roba del genere. Questo sciacallume culturale che ci abbiamo in Occidente, e che c'è, non è solo in Italia, perché dici ah beh in Italia che schifo l'italiano, no, è proprio un problema culturale occidentale che indubbiamente cioè compromette il modo di essere visti da parte di un'altra parte del mondo che ragiona in maniera completamente diversa da noi, culturalmente diversa da noi. Anche se noi abbiamo provato ad omologare tutto e tutti, abbiamo provato a inserire tutti quanti all'interno di questo grosso cappello, no? Che era la globalizzazione, non era solo più commerciale, era culturale, ideologica. Ma no, non ha funzionato, perché non può funzionare così. Perché la Cina ragiona su presupposti culturali millenarmente diversi dai nostri. E la stessa cosa probabilmente vale per la Russia, così come può valere per la Corea, così come può valere per la Mongolia. Per quanto noi ci sforziamo a voler avere questo pensiero monodirezionale globale, dove nessuno si deve alzare la mattina e dire ma guarda questa cosa non va bene perché che brutta la guerra. Perché questo è quello che succede, raga. Quindi, insomma, ragioniamo anche su questo aspetto qua. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you Yeah, maybe you're brave, boy, you're my weakness. Give and we take, the love that we make, it's my favorite drug. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain holds you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. You always make me feel like, oh yeah, you never leave my thoughts alone, yeah, you're the reason I'm going out of my mind. I just can't stop thinking about you got me feeling some type of way. You make me wanna stay in all day, you're the reason I can't get out of my head. I just can't stop thinking about you. Ammazza e palle sta canzone. E vabbè, succede qualche volta. No, è carina, bella, pure tecnicamente ben, però insomma, un po' mosce le canzoni di stamattina. E, però insomma, torniamo in diretta. E niente, volevo parlare un po' anche di questa cosa della Codacons, che voi sapete cos'è, no? Insomma, non ve lo chiedo perché chiaramente insomma non c'è stato, c'è nessuno stamattina. Proprio non gli andava a nessuno ad ascoltare la trasmissione, ma ci sta, perché tanti si aspettavano Michela e quindi giustamente non si aspettavano questo qua brutto con sta voce così che rompeva i coglioni, no? Tanto se sentite rumori, giustamente non è che uno sta a fare la trasmissione, insomma, però va bene. No, dicevo del Codacons che a un certo punto si è accorto che a volte, oh ragazzi, poi succede, che a volte nelle partite di calcio succedono cose, insomma, che magari compromettono i risultati, no? Per esempio, c'è stata la partita tra Lazio e Spezia, la Lazio ha segnato all'ultimo secondo con un gol che dicono che è fuori gioco. Poi a me non mi sembra, però devo dire la verità che non ho capito la logica per la quale loro dicono in fuorigioco, e non mi hanno fatto neanche vedere le immagini per poterlo decidere, insomma. Però insomma pare che ci sia sta cosa, perché il portiere, ecco perché il portiere era più avanti di mezzo naso rispetto al giocatore della Lazio che ha fatto gol. E allora la Codacons giustamente ha detto: oh, ma sai, vedi che c'è, è uno schifo, perché proprio è uno schifo, e quindi noi facciamo un intervento per richiedere la ripetizione della partita, perché il danno che c'è stato nei confronti dello Spezia è un danno incredibile. Fermo restando che se fosse vero io potrei anche essere d'accordo col fatto che c'è stato un danno, e un danno incredibile. Ma quanti danni e danni incredibili ci sono stati nella storia del calcio? E adesso la Codacons dovrebbe organizzarsi con le altre Codacons internazionali e chiedere alla FIFA di rigiocare Italia-Corea, perché l'arbitro Moreno era un arbitro corrotto, dove sono stati compiuti non solo degli errori tecnici, ma dei errori tecnici anche in malafede. Quindi dobbiamo rigiocare tutto il resto, tutta la parte finale di quel mondiale va rigiocata, perché giustamente, cazzo, c'è stato... Oppure quel famoso Juventus-Parma del 1998-99, con quel famoso gol prima che l'arbitro ha annullato dopo essere stato senza motivo, però no, no, è fallo, è fallo. E se ne è dibattuto per settimane questa cosa, non si è mai capito che cosa era fallo. Anche quello è un errore tecnico riconosciuto, riscontrato, e anche quello bisogna rigiocare tutte le ultime 4-5 giornate di campionato. Forse la Lazio poteva vincere lo scudetto, no? Oppure tantissime altre storie che ci sono state sicuramente, no? Perché il calcio è pieno di errori che noi dobbiamo solo presupporre che siano errori tecnici e non errori in malafede, altrimenti non ci avrebbe neanche senso, no, continuare a vedere partite. Infatti per molti non ha senso, per altri invece ce l'ha il senso, perché comunque lo sport piace, è un modo per distrarsi, è una passione, è anche un affetto a un simbolo, a un colore, a quello che volete voi. Però purtroppo queste cose nel gioco del calcio ci stanno, ma ci stanno in generale in tanti sport. Vogliamo tornare sempre in Corea, alle Olimpiadi di Seul. Io mi ricordo in maniera incredibile, mi ricordo una scena incredibile, ragazzi, che mi è rimasta impressa, perché voi sapete, insomma, che noi a livello di pugilato, insomma, abbiamo raccontato sempre la nostra storia. E le Olimpiadi di Seul furono le uniche Olimpiadi nella storia dove la Corea aveva vinto un sacco di medaglie. No, e poi, cioè, è inutile che vi dico fatemi una domanda e datemi una risposta, perché chiaramente c'è, cioè, un dato oggettivo, no? Cioè, quelli magari dice, sai, oh, ci sono le Olimpiadi da noi, allora si allenamo de brutto, per 4 anni si allenamo de brutto, in modo che, insomma, arriviamo preparati. Però ci sono delle cose nelle quali loro non c'hanno manco scuola. E mi ricordo questo incontro di box, questa finale per la medaglia d'oro, tra un italiano e un coreano, giustamente. E l'italiano l'ha sconocchiato de botte al coreano. Cioè, proprio il coreano alla fine, quando l'arbitro ha dichiarato il verdetto, stava lì e barcollava praticamente. E quando l'arbitro ha alzato il braccio del coreano, anziché il coreano, ha fatto loro un gesto di "ma che cazzo state a dì?" Cioè, fu una... E l'italiano giustamente sbroccò e andò lì a buttare giù i computer di tutti. Poi penso che sia stato anche squalificato, giustamente. Ecco, nel mondo dello sport è questo che ti deve far incazzare, il fatto che tu non hai un diritto di replica, cioè tu non hai la possibilità di prendertela, non hai la possibilità di manifestare anche di fronte a un'evidenza così palese, perché quella fu un'evidenza palese, cioè che comunque tutta la mafia coreana è intervenuta così prepotentemente nei confronti del Comitato Olimpico, che non hanno evidentemente potuto difendersi stando lì. E nessuno poi ha fatto comunque delle rettifiche dicendo beh, in effetti ci vergogniamo delle Olimpiadi che sono state fatte a Seul, dove probabilmente poi nient'altro faranno. Però ci hanno rifatto, capito? Ci hanno rifatto e ci hanno fatto il mondiale Corea-Giappone, no? Perché giustamente... Che roba, ragazzi, la Kotakons dovrebbe preoccuparsi di cose serie, di aiutare i consumatori laddove ci sono veramente dei problemi importanti, dove ci sono le aziende che mutano unidirezionalmente le bollette, banche che cambiano gli importi dei mutui, come è successo a me recentemente, in maniera sempre unilaterale. Quando tu vai lì, no ma è giusto, perché qua e là la supercapsula del coso con la quota capitale dell'interesse, e tu devi andare da una di queste associazioni e dire tu mi devi difendere, non devi pensare a Spezia Lazio. Tra l'altro la Kotakons aveva già fatto un intervento del genere sempre su una partita dello Spezia, che tra l'altro, cioè, lo fai una volta, lo fai due volte, tra l'altro perdi proprio di credibilità. Ma la cosa più scandalosa è che non soltanto tutta sta cosa, nonostante 50 anni di soprusi sportivi che ci sono stati nel nostro paese, no? 50 anni, perché mi tengo buono, e buoni 35 di questi me li ricordo pure, 50 anni di soprusi sportivi, alla fine il messaggio è passato in questa lotta ideologica contro la Lazio, contro l'Odito, che alla fine la Lazio ruba. E quindi l'AIA, che è l'associazione degli arbitri, sospende arbitro e VAR. Quindi se sospende arbitro e VAR non è per il gol in fuorigioco, è per la conduzione generale. Nel senso che nell'arco del campionato, arbitro, quell'arbitro e quella VAR sono stati degli incapaci. Perché se no sospendevano solo la VAR, l'arbitro che c'entra? L'arbitro, quando c'è stato un gol in fuorigioco e lui non si è reso conto, subentra la VAR proprio per quello. Se la VAR avalla, lì c'è un problema tecnico. O questi non sanno quello che stanno a fare, oppure per loro già era buono. Cioè, nel senso, non è che c'è stato tanto da discutere su questa cosa. Ma poi la cosa peggiore è che giustamente lo Spezia fa questo comunicato dove lei si ritiene soddisfatta di questo intervento dell'AIA perché dimostra che loro sono stati danneggiati. Quando bisogna vedere, io la partita l'ho vista con Marco Gualdi, che non gliene frega un cazzo dalla partita, no? Cioè, però tutto questo danneggiamento da parte dello Spezia, non c'è, ma io non voglio entrare neanche nello specifico, perché quello lo stanno affaggiando tutte quante le testate, no? Quello che voglio dire io in generale è che tu non puoi prendere un'associazione categorica come quella, che dovrebbe avere una funzione importante dal punto di vista commerciale, sociale, economico, di supporto, perché fa che una partita va rigiocata perché c'è stato un errore tecnico. Dovremmo rigiocare 50 anni di partite di pallone, 50 anni di partite di pallone, per non parlare del famoso scudetto del 1915 assegnato a Genova perché era scoppiata la guerra e quindi la finale tra Lazio e Genova non si è giocata perché Genova era più forte, quindi scudetto a Genova. Quindi non so, 50 anni, stiamo parlando di 100 e passa anni di storia di sport fatte, dei soprusi sicuramente, ma anche di errori tecnici in buona fede, di danni subiti da parte della società che purtroppo alla fine si sono trovate in quella determinata condizione. Ma vedete un disegno per sfavorire lo Spezia? Mo Spezia, io la voglio pure bene, no? No, non te voglio bene, me ne frega un cazzo, non so, cioè non so manco che storia c'hai, non me ne frega niente. Però oggettivamente, no, non vi sembra un po' assurdo il fatto di vedere un disegno globale che sia atto a mirare praticamente la presenza dello Spezia in Serie A piuttosto che no? Lo so, ditemo voi. To bring all the highs and lows, said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. It rains down on me, all the phone calls I'm ignoring. See, I'm a mess, just trying to guess my way through this. Just don't get enough of me. just don't get enough from me. Vediamo adesso, va a finire così la canzone, ma che cazzo, scusate, niente, ero distratto perché stavo a discutere con Walter, che sicuramente non ha sentito la prima parte della trasmissione, dove comunque io ho espresso un po' quello che penso della visione russa del mondo in generale, del mondo orientale, rispetto a quello che è la nostra visione, che abbiamo provato a globalizzare anche per realtà culturali secolarmente diverse dalle nostre, insomma. Però comunque quello che volevo dire, comunque, al di là di questa cosa dello Spezia, del Kodakoms, che è così anche un attimo per spezzare, quello che invito sempre io in generale a tutte quante le persone ad avere sempre una posizione critica. Quando voi ascoltate una cosa, mettetela subito in discussione, poi ci ragionate, magari ci ritornate, perché magari quello che ti è stato detto è la verità, o comunque è un pensiero coerente, è un qualcosa che può avere una ragione. Però l'importante è smetterla di accettare in maniera così inconsapevole quelle che sono le proiezioni ideologiche che ti arrivano dall'esterno. Perché, e questo io ogni tanto quando vado con Michela all'area Cani, no, alla Regani, al parchetto, insomma, comunale, tra virgolette, insomma, al parchetto dove ci sono i cani che giocano e tutto quanto, e questi qua, che qualcuno all'interno di questa cosa si è arrogato il diritto di essere una sorta di coordinatore all'interno di una cosa che non c'ha coordinamento se non delle regole, in teoria, e hanno messo sta bandiera dell'Ucraina, no? Perché non hai messo la bandiera della pace e hai messo la bandiera dell'Ucraina? Perché ieri Ambrangiolini al concerto del primo maggio e piagneva ogni 2x3, mi dicono, perché io, grazie a Dio, non l'ho visto, c'aveva la maglietta con la bandiera dell'Ucraina. Perché? Perché l'Ucraina in questo momento è un simbolo di qualcosa da proteggere, qualcosa da difendere, o perché noi comunque parteggiamo per l'Ucraina piuttosto che per la Russia? Domandiamoci anche questo. E quando prendiamo una posizione e cerchiamo di esprimere una posizione, come ho fatto prima io nella prima parte della trasmissione, dicendo io sono contro in generale la guerra della Russia, ma sono contro in generale la guerra, che non è mai una soluzione se non un atto di supremazia nei confronti di qualcun altro, quindi un sopruso, un abuso, un atto di violenza. Ma di certo tra due contendenti non prenderò mai una posizione. Se tu mi dici dai una mano per salvare i cittadini di quel posto, certo che darò una mano se posso, economicamente, in qualche modo, mandando i pannolini, mandando la carne in scatola, quello che cazzo mi pare. Certo che io darò una mano alle persone in difficoltà, a tutte le persone in difficoltà. Ma questo dovrebbe valere per tutte le guerre, per tutte le situazioni. Io non posso prendere una posizione nei confronti dell'Ucraina, perché gli altri, quelli che mi dicono di prendere una posizione a favore dell'Ucraina, non prendono una posizione verso altre realtà che sono a disagio, per dirla in maniera leggera, ma questo l'abbiamo già detto mille volte, no? Tutti quei popoli che vengono ignorati perché coloro che sono i loro persecutori, in realtà sono ben visti dalla società occidentale, rientrano nel grosso cappello, e quindi quelli vanno bene, no? Poi alla fine, se tu sei un curdo, sei un palestinese, non lo so, sei un armeno, sei qualsiasi tipo di altro, di altra appartenenza culturale alla quale tu fai parte, non importa, sti cazzi, siccome che non se ne parla, la gente se ne dimentica. Ma se io vado da tutte queste persone che oggi prendono posizione verso la guerra, e quindi brutta Russia cattiva, maledetta, brava Ucraina, forza Ucraina, e io vado a dire ma tu lo sai la storia degli armeni, tu lo sai che è successo in Turchia, tu lo sai che è successo coi curdi, tu lo sai che succede ogni giorno contro i palestinesi, non lo sai, perché sei ignorante di tuo, perché non metti in discussione niente di tutto quello che ti viene detto, e perché non leggi i libri, non leggi la storia, perché leggere ti rompe il cazzo, perché non ti va, perché preferisci prendere una posizione semplice, che è quella ben vista da tutti. E il fatto che ci sono certe persone che vanno in televisione a provare a dire il contrario, tutti a te il messaggio che ti arriva è che quello è un messaggio, e quindi tutti buoni e tutti siti col pensiero, come dice giustamente il buon Walter Sbano, unidirezionale. I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says it's chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if he won't take a lazy day. Wifey want me, told me take a break. I keep going to the paper street. Then it's trips out to Montego Bay. If I take the job, bet I get it done. I said it before, I'm a 101. I just count some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me come. Diamonds on your neck, bet they on your neck. You want that watch, you better rock a tech. You want that chain, you better cop a vest. You want the check, but can you make it stretch? Ammazza, è belle queste canzoni, proprio. No, questa è carina, dai, tutto sommato. No, volevo dire un attimo una cosa. Forse Walter mi può aiutare, perché magari ha portato di mano, insomma, il suo dispositivo. Aspettate, ragazzi, un secondo soltanto, che mi so. No, non voglio attivare le notifiche di Instagram. Non le voglio attivare, grazie. Se volete, dato che io penso che per avere un pensiero critico, per comprendere il mondo, bisogna leggere, ma non leggere i trattati storiografici, i diari dettagliati dei grandi leader, leggere per divertirsi, perché leggere non soltanto addestra la mente, cioè ti rende un po' più elastico anche a un pensiero più elaborato, ma ti allena anche all'uso della lingua, che è già di per sé un grandissimo esercizio mentale, perché riuscire a concepire ascoltando, leggendo e poi ovviamente riproducendo un pensiero articolato da un punto di vista linguistico ti aiuta anche a sviluppare un'idea, anzi a sviluppare un modo di pensare, indipendentemente da dove questo ti porta, no? Perché io ho detto, non è che c'è chi obietta e chi mette in discussione, chi ha senso critico c'ha ragione. No, c'ha ragione nel farlo. Poi dopo magari dicevo, cazzo, però vabbè, ho criticato, mi sono messo in dubbio, mi sono documentato. Ma leggere significa leggere i grandi romanzi di formazione di quando eravamo ragazzi, che quando li leggevamo a scuola dicevamo che coglioni, li dovevamo leggere. Leggeteli adesso, vedete che li troverete divertenti. Oppure i grandi romanzi storici, oppure le grandi storie, oppure magari un giallo moderno, quello che cazzo volete, ma leggete e vedrete che lo troverete ed è divertente. All'inizio sembrerà un po' una palla, ma poi dopo, alla fine, piano piano diventerà un'abitudine. Dedicate un pizzico del vostro tempo, invece di vedere le zinne su TikTok, dedicatelo a leggere dei libri, ragazzi. Non fate gli stronzi, perché è importante. Lo dico ai più giovani, ma in teoria andrebbe detto anche ai vecchi, perché adesso il problema politico è i vecchi, tutti sti cazzo dei boomer su sti cazzo dei social a scrivere stronzate, a pensare stronzate, ma non neanche lo pensano, lo fanno del default, vedono la cosa, cliccano, condividono, stanno a posto, tutti a posto con la coscienza. Allora, cercatemi su Instagram, io adesso chiedo aiuto a Walter, dicevo, perché magari Walter c'ha il mio nickname, non so, profilo, vediamo un po' se riesco a capire, perché manco me lo ricordo io. Allora, Pizzi Simone 1972, mi cercate e io vi prometto che da oggi o da domani ogni tanto inizierò a postare sia nelle stories che nel che nei post normali un titolo di un libro da leggere. Io ultimamente sto leggendo molti libri in particolare, quindi vedrete che io ogni giorno vi posterò dei libri e vi suggerisco di leggerli. Alcuni saranno delle letture più leggere, alcune saranno delle letture più articolate, e comunque, se volete, prendete il vostro computerino del cazzo, il vostro smartphone del cazzo, cercate Gli scimmioni non leggono Nietzsche. Lo so che non sapete come si scrive Nietzsche, ma voglio dire, cioè, ci dovete arrivare, raga, perché se no non è accettabile. Andate praticamente, cercate Gli scimmioni non leggono Nietzsche, che è il podcast Simone Ortolani, che in un quarto d'ora, in ogni puntata, vi suggerisce dei romanzi, dà degli spunti, delle cose, ma lo fa in maniera talmente leggera, non leggera nel senso che i temi sono leggeri, ma in maniera così semplice, così fluida, no? Questo piccolo viaggetto di un quarto d'ora ogni puntata, dove fa tutto un suo percorso, no? Anche a livello tematico. Ecco, andate e beccatevi e leggete, raga, perché è una cosa fondamentale per aiutare la vostra mente a tornare vigile. Perché se voi vi prendete un'intervista di un operaio del 1975 e prendete una persona di pari età di oggi, non c'è confronto tra due persone che non hanno studiato entrambe la capacità di estrinsecare un concetto e di articolare il linguaggio è completamente diversa, ragazzi, ed è una vergogna questo, mi dispiace dirlo. Ed eccoci qua, ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Come sempre io la mattina mi sveglio, non so di che cosa parlare, dico vabbè, è brutte, alle 7:30 interrompo la trasmissione e me ritorno a dormire, ma poi alla fine mi faccio prendere da queste enfasi, questi momenti così particolari. Vi ricordo, come ho detto all'inizio trasmissione, che questo è il mese più drammatico di Runtime dai tempi di Dunkirk. Quindi donate, donate, donate, www.runtimeradio.it, pulsante anch'io, contribuite con una donazione singola su PayPal o con una donazione ricorrente su Patreon. Sostenete questo progetto che continua ad essere in grande trasformazione. Nuovi podcast stanno arrivando in virtù del fatto che molti podcast sono oramai praticamente quasi estinti, e ovviamente anche la transizione in radio e poi la trasmissione anche in radiovisione tramite Twitch, dove alcuni dei talk show che stiamo facendo e che si prestano anche magari alla presenza su Twitch andranno anche su quella piattaforma in interconnessione durante le dirette, in modo che chi arriva anche da quella piattaforma si possa avvicinare a Runtime e fare anche magari lì degli abbonamenti, delle contribuire, insomma. E poi ricordatevi che siamo, manca poco al fatto che Runtime si istituzionalizzerà molto presto, insomma. Grazie per tutti coloro che hanno ascoltato questo episodio, grazie a Walter e Michela in particolare, e grazie invece a tutti coloro che l'ascolteranno in podcast. Per ora, per oggi è tutto, grazie, ciao e buona giornata, un cazzo!